Toma veche dentro di chi non mi ha posto mai. Camine, camine, drogate, non ci sbaglio sì. Tu mi avevi pierde via tana, ci tu mi hai dita una tana, curate come ne avevi pierde, ci tragosta me. Nicolai Costantino, per un cufelo della casa nova, si c'ha mai dare melodie, e tu non spari reggaeton sentire. Tu mă vei pierde viața mea și nu mai din cauza.